stasera siamo a Bagge 61 per il secondo incontro di presentazione del circuito che ci porterà anche nelle prossime settimane in altri spazi e in altri luoghi della città per presentare il progetto di rigenerazione dal basso degli spazi dell'ex centrale del latte di via Porticella. Esperienza e spazio che arriva da un'esperienza storica di questa città, che è quella del laboratorio Crash, che negli ultimi 15 anni diciamo che di posti ne ha aperti tanti, tante porte aperte, tanti portoni che insieme alle nostre reti sociali abbiamo aperto e occupato collettivamente per trovare e dare spazio alle forme dell'auto-organizzazione, della politica dal basso e della cultura, spazi che hanno permesso in questi lunghi anni di lotte e contrapposizioni con le varie amministrazioni ma anche direttamente con i vari sgomberi con la polizia, hanno permesso di strappare un luogo che finalmente darà sede ai nuovi laboratori e quello e i progetti che vogliamo aprire in via di Porticella 129. Partendo da questo, lo spazio dell'ex centrale, appunto ripeto, da giugno dell'anno di quest'anno siamo entrati in possesso con le nostre reti sociali, arriva da queste esperienze di lotta che appunto sono riuscite finalmente a strappare all'amministrazione comunale odierna uno spazio che non è assegnato ad associazioni, ma è un'associazione informale, quindi un altro passo avanti sicuramente dettato le lotte di questi ultimi anni che permetterà, speriamo a tutti e tutti, ad altre esperienze, di poter continuare su questa via e trovare anch'essi nuovi spazi di auto-organizzazione, di autogestione, di cultura dal basso, come quelli che vogliamo proporre all'interno degli spazi dell'ex centrale. Per fare questo però, oggi questa seconda giornata entra in una campagna di più lungo respiro che vuole essere una campagna aperta, una campagna collettiva nella quale appunto poter collaborare, trovare nuove forme dell'auto-organizzazione con i quali portare avanti i lavori che nell'ex centrale bisognerà mettere in campo per rendere accessibile prima di tutto lo spazio. Uno spazio che è vuoto da 50 anni, si tratta appunto di un ex centrale del latte, lasciato all'abbandono, logoro e diciamo per ora non ancora fruibile da tutti e tutte noi. Penso che in questa stanza pochi hanno potuto fino ad oggi attraversare, vedere gli spazi, se non dalle foto che abbiamo potuto fare, pubblicare sopra i nostri siti e mezzi di comunicazione, perché appunto si tratta di un'esperienza che vogliamo aprire nel più breve tempo possibile sicuramente, ma che ha bisogno di forze, lavoro e sicuramente anche di una spesa economica non da poco. Insieme infatti ad Architetti di Strada, un'altra associazione di architetti che sta supportando ed ha steso il progetto che potete trovare poi qua al banchetto, la proposta di rigenerazione dell'immobile, una proposta che vedrà in quegli spazi che ad oggi non sono funzionali adibiti a tale scopo, la possibilità di ricavarci una sala grande in cui poter continuare le attività culturali, musicali, come in quelli della cooperazione 10 in cui era e viveva l'ultimo l'esperienza del laboratorio Crash occupato che è durata per molti anni e altre sale più piccole in cui renderle funzionali per le attività laboratoriali che già vivevano negli altri spazi ma nei quali chiediamo anche a tutti di poter portare proposte per attività e per sfruttare quegli spazi. Si tratta di altre tre sale che già adesso vorremmo rendere funzionali per le attività di quartiere, una sala di registrazione, una stereografia e via dicendo, e più riempirle con tutte le altre proposte che ci arriveranno. Quindi questo spazio, come dicevo prima, ha bisogno di tanti interventi strutturali che ci hanno portato e spinto ad aprire una prima campagna di fundraising che si sta attuando già da una settimana a questa parte su produzioni dal basso, si può contribuire economicamente e direttamente attraverso questo portale con anche dei compensi che d'altra parte vengono dati per chi interviene e vuole supportare il progetto come il libro del laboratorio Crash di nuova uscita o la serigrafia con cui Zero Calcare ha voluto contribuire a questa esperienza. dall'altra sono passaggi che vorremmo fare e attuare nel breve periodo, che si dividono in vari step. Quindi questa campagna di fundraising su produzioni al basso si dividerà in step. Il primo step è quello che abbiamo attivato 2 settimane fa ed è quello che vedrà appunto i primi lavori strutturali per avere le prime certificazioni e collaudo dell'immobile, per far sì che sia veramente attraversabile e non crolli nei primi periodi, con i primi allacci dell'acqua e dell'elettricità, perché è completamente assente anche tutte le varie parti di sussistenza minime, come i bagni, cioè un'assenza totale di qualsiasi funzionalità normale che può avere uno spazio come ce lo possiamo immaginare oggi. Il secondo step, che riguarderà quello del giardino, di impianti elettrici, idraulici, e il terzo step, che sarà quello finale, che speriamo possa portarsi a compimento nel più breve tempo possibile e quindi renderlo attraversabile lo spazio da tutti e tutte, che sarà quello del rifacimento del salone grande, che è lo spazio un attimo che vorremmo adibire come sala concerti, attività culturali di vario genere, e contenere qualche centinaia di persone. Quindi questo è sicuramente un primo passaggio che abbiamo messo in campo per far fronte alle esigenze di questo nuovo spazio, che abbiamo voluto rinominare come ex centrale del latte, fermo restando che naturalmente tutte le esperienze del laboratorio cresce, e quelle che abbiamo sempre portato avanti con le nostre politiche dal basso e via dicendo proseguiranno al di là dell'assegnazione di questo spazio, che appunto verrà adibito come spazio di quartiere nella periferia nord di Bologna. Oggi qua siamo anche a parlare di altre questioni, che sono quelle degli spazi vuoti, abbandonati, occupati, sgomberati e lasciati alla polvere. Adesso c'è qua anche Valerio oggi che potrà ci narrerà come il progetto di ricerca portato avanti da Zero in Condotta ha elaborato, studiato e finalmente anche denunciato cosa vuol dire nella Bologna del 2019 portare a compimento degli sgomberi. La maggior parte di questi sgomberi sono stati sgomberi, 15, cioè molti di più, 22 dei quali derivano dalle esperienze del laboratorio Crash, di tutte le sue diramazioni, come le occupazioni abitative non ultime come quelle dell'Extel, come via Mora Porta Galliera o di De Maria, e che rivedono oggi un lascito che ci lasciano queste occupazioni e la volontà politica espressa anche da questa amministrazione, che è di sgomberi meramente politici, per lasciare spazio all'abbandono, alla polvere, al degrado e nuovamente all'incuria. Quindi questo è un altro passaggio che adesso, in quale entrerà più nello specifico Valerio, col quale però noi vogliamo continuare a denunciare l'assenza di spazi molto spesso che vengono da richieste, da proposte, da associazioni, dall'auto-organizzazione dal basso, e che dall'altra, come spesso accade, si fa orecchie da mercante e si dice che gli spazi non ci sono. Gli spazi ce ne sono tanti, ancora in disuso, vuoti, abbandonati in questa città. L'ex centrale via Porticella 129 è un'esperienza che sa e porterà alla rigenerazione dal basso di quel posto, ma pensiamo che tanti altri sposti e spazi in questa città possono essere adibiti a questa funzione. Possono essere rimarcare un'esigenza che sta avvenendo anche oggi in questa città, non ultima l'esperienza di XM24, possono essere riutilizzati e tolti all'abbandono di cure per essere tornare ad essere spazi vivi, vitali, della politica, dell'auto-organizzazione, dell'antifascismo e dell'antisessismo, che sono nostri vari portanti delle attività culturali, ludiche e politiche che portiamo avanti in questa città da anni, insieme anche a Barrio 61 e a tutti gli altri centri sociali della città. Nella Bologna, che vedrà anche giovedì prossimo l'arrivo, l'incursione del porco leghista, che porterà le sue solite parole di odio verso anche le culture, le auto-organizzazioni dal basso. Dimentichiamo tutti i vari fatti passati, i vari scontri diretti che abbiamo avuto con il diretto impegnato Salvino, con la Borgonzoni direttamente, che ci hanno portato a spingere ancora di più per giovedì e tornarci a ritrovarci tutte e tutte in piazza. Mi lascio la parola a Valerio, che magari ha molto più di me da raccontare, visto anche la sua esperienza storica. Esperienza, dai. E si può lavorare. Allora, per attualizzare questa ricerca che è stata in condotta fece per la prima volta nel 2011 e poi per riaggiornata nel corso del tempo fino al 2017. Nei giorni scorsi siamo andati a vedere la sede che il Comune ha proposto all'XM24, cioè un capannone nella zona estrema della periferia del quartiere Navile, vicino alla capolinea Noce dell'autobus 18, e siamo partiti appunto dalla narrazione che l'assessore Lepore ha fatto rispetto a questo spazio, dicendo sono 18 minuti che dal centro, cioè da Piazza Roosevelt, dove l'autobus 18 parte, arrivare alla 378 di Via Zanardi, sono necessari per l'autobus 18 minuti. Sembrava un gioco, uno scioglilingua, diciamo, un gioco di parole. In realtà l'assessore Nepore non ha raccontato una cosa che non è secondaria, che l'autobus 18 viaggia lungo quella linea dalle 5 del mattino alle 21 di sera, dal lunedì al venerdì, dalle 21 non c'è più nessun mezzo pubblico, e il sabato e la domenica l'autobus 18 non c'è. Non è una cosa secondaria, per dimostrare che appunto tu decidi di spostare uno spazio in una periferia che non è una periferia interessante, cioè vissuta da persone che hanno problemi, che hanno difficoltà, rispetto alla quale puoi interagire e proporre delle cose, ma è una piccola zona artigianale, la struttura è attorniata appunto da piccole fabbrichette. Tra le altre cose, la cosa molto curiosa e quindi altrettanto singolare è che l'officina più prossima a questo spazio è un'officina di riparazione e tagliandi per automezzi dei carabinieri, della polizia e della polizia penitenziaria. Allora la cosa più curiosa è che si arriva in questo posto e si vedono 15 blindati dei carabinieri che sono già piazzati appunto di fianco allo spazio. Quindi anche questa è una cosa abbastanza singolare. Ma al di là di tutto, questo piccolo tour per capire cosa effettivamente fosse questo spazio ci ha permesso in qualche modo di rivisitare dei luoghi, degli spazi che con l'inchiesta Piede la Polvere avevamo individuato alcuni anni fa. E quindi, per esempio, al numero 28 di Via Zanardi esiste una palazzina di proprietà delle Poste, tre piani più un capannoncino, una palazzina che fu occupata nel 1991, che era vuota nel 1991 da alcuni anni, fu occupata da una serie di collettivi, tra cui anche Senza Frontiere, se non vado errato, che avevano iniziato un lavoro rispetto alle prime migrazioni di uomini e donne dai paesi del sud del mondo, e l'emergenza casa già allora era una problematica molto forte. Venne occupata questa palazzina nel 1991, venne sgomberata dopo 10 giorni e quella palazzina è ancora vuota lì in via Zanardi 28, un luogo che probabilmente sarebbe stato molto più adatto per esempio per l'XM24 rispetto a quello che abbiamo proposto. Andando avanti, altre cose che sono secondo me utili di raccontare e riaggiornare, al numero 30, rispetto per esempio al problema della mancanza di posti letto per gli studenti fuori sede. Oggi questa città, sappiamo tutti, insomma, abbiamo fatto i conti in questi anni, è completamente cambiata, è diventata una città a vocazione turistica. Molti, quasi tutti gli alloggi destinati alla locazione, ma non alla locazione popolare, alla locazione tout court, che negli anni passati erano stati anche mezzo di strozzinati da parte di tante realtà rispetto soprattutto agli studenti fuori sede, oggi anche quegli alloggi sono messi da parte per il circuito dei bed and breakfast, dei Airbnb, e quindi agli studenti fuori sede sono state fatte delle proposte abbastanza bizzarre, come quelle di andare a abitare nei paesi della cintura fino a San Benedetto Val di Sangro. Quindi sarà un caso che via Zanardi inizia con un nuovo centro commerciale, l'ipermercato PAM all'incrocio tra via Zanardi e via Bovi Campeggio, e quindi si spostano i grandi centri commerciali verso il centro della città, i luoghi di aggregazione o le figure sociali non proprio desiderate vengono allontanate sempre di più dai luoghi vivi della città. E lungo questo percorso, appunto, c'è il numero 30 di via Zanardi, un immobile che potrebbe essere tranquillamente destinato ad ospitare un piccolo luogo per studenti, cioè costruire uno studentato per 35-40 posti, e anche quello vuoto da tantissimo tempo, sempre di proprietà delle Poste, e che fu occupato nel 2006, in questo caso da compagni anarchici libertari, lo chiamarono spazio libero dal fosco, e rimase occupato 4-5 ore, poi fu sgomberato ed è ancora in quella stessa condizione. Andando avanti, ci sono due posti che fanno parte della storia del laboratorio Crash. Il primo capannone è quello sulla rotonda di via Zanardi e via Marco Polo, che fu per tanto tempo appunto uno dei luoghi più importanti della città rispetto alle cose che all'interno furono fatte per tanto tempo. Poi fu sgomberato. Questo posto oggi è utilizzato dal comune per fare un semplice magazzino di documenti. Ma se andiamo più avanti, a 176, c'è il penultimo, il terzultimo spazio occupato dal laboratorio Crash, sgomberato nel 2008 e oggi è ancora completamente vuoto. L'unica cosa che è cambiata, hanno messo uno striscione davanti che dice vendesi, ma che probabilmente non riusciranno mai a vendere, e la motivazione, questo è interessante, per cui lo spazio fu sgomberato nel 2008, era che quello era uno spazio molto adatto per realizzare una stazione del servizio metropolitano ferroviario. Poi una cosa che assolutamente non stava in piedi, che infatti non è stata neanche portata avanti. E quindi, cioè, lungo questo percorso che porta fino in fondo alla strada, fuori, quasi vicino alla tangenziale, c'è comunque un tessuto di luoghi che hanno rappresentato un elemento di socialità e di azione politica e culturale molto importante, che sono stati scelti accuratamente per essere chiusi e per essere riportati nella condizione di abbandono. Questa della motivazione con cui molti spazi sono stati sgomberati nel corso dei decenni, quelle che a un certo punto dovevano servire per altre attività utili al bene comune della città, su XM ultimamente è stata presa questa motivazione del co-housing, realizzare in quella struttura 10 appartamenti è una cosa demenziale, che con il costo che verrà sostenuto a questo punto per portare avanti in maniera propagandistica questo progetto, si sarebbero potuti fare 30-40 alloggi popolari, fanno 10 mini appartamenti messi in una condizione che probabilmente non darà nessun tipo di risposta al bisogno abitativo che esiste in città. Ma al tempo stesso questa motivazione per cui gli spiazzi dovevano essere sgomberati per poi essere utilizzati per altre finalità è la prima motivazione attraverso la quale appunto le amministrazioni comunali che si sono succedute nel corso dei decenni hanno sempre giustificato le loro politiche di voto. Voglio fare un esempio che è più paradossale. Siamo nel 1976, un anno dal 78, si occupa uno spazio abbandonato vicino alla Certosa, nella zona della Berretta Rossa. Si formò il centro operaio proletario della Berretta Rossa. Dopo un mese di occupazione, la giunta comunale di allora decise di abbattere il 14 agosto con le ruspe, quindi le ruspe che rivediamo ancora oggi come simbolo appunto del potere e della sua strapotenza nei confronti appunto del conflitto sociale, abbatterono questo immobile. La motivazione era questa: stiamo ristrutturando le case di proprietà comunale nel centro storico. Per ristrutturarle in maniera adeguata sono necessari dei coppi, delle tegole storiche, quindi quelle che sono sulla struttura di via Beretta Rossa sono utili, e la struttura viene abbattuta con questa motivazione. E di queste cose ne abbiamo viste tantissime. Allora, perché abbiamo deciso di lavorare su questa inchiesta e di riaggiornarla ogni volta che era necessario? Perché comunque questa logica di avere in città dei luoghi abbandonati da parte delle amministrazioni è una logica che è stata utilizzata molto spesso anche per poi supportare le cosiddette politiche contro il degrado sociale, per il decoro urbano, per permettere poi la nascita anche di comitati fasulli che su queste cose hanno costruito le loro fortune politiche. Molti di voi sono studenti, quindi hanno l'esperienza di questi anni e hanno conosciuto i comitati inesistenti dal punto di vista della consistenza numerica e della forza di aggregazione di Piazza Verdi, ma in ogni zona della città molto spesso di fronte appunto a un palazzo abbandonato dove qualche ragazzo tossicodipendente a un certo punto o qualcuno senza casa si è ritrovato a utilizzare questi spazi, si costruisce il comitato contro il cosiddetto degrado, e diventa questo un elemento dell'azione politica e della narrazione politica del potere a più riprese. Anche perché rispetto ad alcuni sgomberi che ci sono stati in un periodo più recente, per esempio sul terreno abitativo la scuola Ferrari di Via Toscana, insomma, che chi passa, e poi anche l'immagine l'ho fatto vedere, è ancora vuota, anche quella doveva essere recuperata in brevissimo tempo. Il palazzo del Policlinico Sant'Orsola, degli ospedali del Policlinico Sant'Orsola di Via Ernerio, anche quello è sgomberato e è rimasto assolutamente vuoto, così come tanti altri immobili. Allora, noi abbiamo l'esperienza che ci riguarda, ci tocca in prima persona. Bagre 61 è l'acronimo di Via Azzo Cardino 61, l'occupazione che facemmo nel 2003, che resistette dal 4 di dicembre del 2003 al 29 di dicembre del 2003, poi ci fu lo sgombero, e quello era la sede del dopolavoro della manifattura Tabacchi, che era vuoto da 5 o 6 anni. Ecco, da allora questo spazio è ancora vuoto, è una zona anche interessante, che un'amministrazione comunale seria che si vuole confrontare anche radicalmente nei confronti di esperienze che producono il conflitto sociale, che producono l'occupazione, dovrebbe dire: la nostra sfida è che noi i posti poi occupati li utilizziamo in maniera adeguata per i bisogni della città. Questa sfida non l'hanno neanche mai azzardata. Si sono limitati appunto a chiudere gli spazi, ma poi non portare avanti assolutamente nulla. E quindi, per esempio, questo spazio di Via Alto Gardino, che fu lo spazio che diede vita all'esperienza di Vaga, e il cinema di fianco, che fu occupato anche da un collettivo universitario legato all'esperienza di crescere qualche decennio fa, e oggi sono tuttora vuoti, sono stati messi a bando a 1.500.000 euro due settimane fa, e naturalmente questo bando è dato deserto. Secondo me ne verranno riproposti degli altri, fino a che il prezzo non diminuirà e arriverà uno speculatore che su quell'immobile farà un'operazione di quelle classiche commerciali che stiamo vedendo oggi all'interno di vari territori della città, per cambiare il volto della città e dargli questo volto ispirato completamente al turismo, svuotando completamente la città della sua ricchezza culturale, politica e anche di aggregazione diversa, di aggregazione che non sia solo quella commerciale. Oggi l'amministrazione comunale propone una logica sia nella gestione del problema abitativo, sia per quanto riguarda la questione degli spazi di solidarietà e aggregazione soltanto da un punto di vista commerciale. Deve essere il mercato a imprimere i tempi dell'utilizzo di questi contenitori. Ora, su questo, secondo me, continuare questo lavoro di ricerca, di denuncia, e di dare poi comunque una prospettiva anche ad altre realtà, cioè le realtà, diciamo, di autogestione in questa città, ce ne sono alcune, 4, 5, 6 consolidate nel corso di esperienze anche di decenni per molti aspetti, ma tutte queste, quello che è bene ricordare, che se anche a un certo punto quasi tutte o una parte di queste realtà decidono di arrivare a una situazione per cui vanno anche a ratificare la presenza dentro uno spazio anche dal punto di vista amministrativo con una convenzione che viene firmata, per avere anche tempi diversi di gestione della propria attività politica, culturale e sociale, per non essere sempre costretti a cercare un posto, occuparlo, essere sgomberati e andare a occupare un altro. E comunque è bene ricordare che queste esperienze sono partite comunque da lotte dal basso, da momenti di occupazione, e hanno prodotto anche delle cose che si sono consolidate. Ma se dei collettivi di ragazzi che si affacciano a questa città, che vogliono esprimere delle cose, dei contenuti, delle esigenze, dei bisogni, che sono diverse anche dalle realtà oggi attualmente più consolidate, che tipo di possibilità hanno se non quella di un percorso di occupazione? Cosa che comunque oggi è assolutamente più complesso e difficile realizzare. È bene ricordare che il primo decreto Salvini, che poi è stato tramutato in legge, che si occupava in parte in maniera precisa della questione dell'occupazione, e i risultati negativi ne hanno avuto. Da quando quel provvedimento è entrato in vigore, le occupazioni nel nostro paese sono quasi azzerate. Allora, da questo punto di vista, mantenere vivo il discorso della denuncia sugli spazi vuoti, andare appunto a svelare questo tipo di situazioni per permettere poi a chi ha bisogno di spazio di andarselo a prendere questo spazio, diventa un problema di tutti, di quelli che lo spazio oggi ce l'hanno e di quelli che lo spazio non ce l'hanno ancora. Non so se ci sono interventi o argomentazioni da portare al dibattito, ma comunque nel frattempo ringraziamo sicuramente Valerio anche della narrazione storica fatta di eventi successi in questa città, che sicuramente non si distolgono tanto da un presente che ancora ci rinarra e riparla con le stesse parole d'ordine e gli stessi fatti che sono avvenuti in questi ultimi anni. Non l'ultimo, io mi ricordo proprio i primi anni che arrivai a Bologna, nel 2010-2009, e trovarmi oggi ne ho visti tanti, sicuramente di spazi, di porte sicuramente buttate giù per occupare degli spazi vuoti, delle occupazioni, ho visto tanti sgomberi e ho visto tanti spazi che ancora oggi rimangono e permangono vuoti. Sicuramente questo è un dato di continuità che la città di Bologna ha avuto dagli anni 70 a oggi, io penso, dalle narrazioni che vengono fatte da Valerio, di Muccio, da chiunque altro in quegli anni c'era e andava in collettivi o faceva attività politica. Quindi, intanto però ricordo anche che chi vuole seguire l'esperienza dell'ex centrale di via Corticella 129 può seguirci su Instagram o su Facebook alle pagine ex centrale Bologna, oppure dal sito excentrale.it, nel quale verranno continuamente aggiornate le iniziative, le attività del progetto di fundraising che abbiamo aperto. La prossima sarà venerdì prossimo al barattolo di via Borgo di San Pietro, altre sono già state calendarizzate in altri spazi, quindi vi invito a seguire le pagine e il sito internet per tenervi aggiornati sui prossimi passaggi del fundraising. Stasera siamo qua, abbiamo anche una cena da offrire a tutti e a tutte voi. contribuzione minima e base che andrà tutto a sostegno di questo progetto e per i primi passaggi degli step che narravo prima. Quindi se non ci sono altre domande, chiuderei qua, ci riempiamo un attimo le pance con la buonissima pasta, chi non l'ha già fatto, e poi proseguiamo questa serata in compagnia. Chi vuole dare altre spiegazioni, sono. Grazie a tutti e tutti. No,